vi vorrei raccontare qualche esempio di cooperative di comunità e partirei da quella che in Toscana è la cooperativa di comunità, che è il Teatro Povero di Montichiello. Ok, ci siete. In principio fu il teatro in piazza, ma l'anima sociale ed economica di Montichiello è una cooperativa sociale pioniera e modello per i piccoli borghi a rischio spopolamento. È stato uno specchio di quello che era il teatro in piazza. Il teatro in piazza è un'esperienza collettiva che coinvolgeva tutti gli abitanti del paese e quindi gli stessi abitanti si sono costituiti in una forma cooperativa che oggi viene chiamata cooperativa di comunità proprio perché è la comunità intera che ne fa parte e attraverso un prestito sociale iniziarono l'acquisto di questa sede del granaio. Prendersi cura proprio dei servizi della comunità, questo è l'inizio. Poi piano piano svilupparsi però perché un'altra esigenza che c'era era quella di dare lavoro. Tutto il paese collabora e lavora alle iniziative della cooperativa, dall'edicola alla foresteria, passando per i ristoranti e una ciclofficina. Racchiudere tutto e tenere tutto insieme non è semplice, anche perché ora stanno nascendo molte realtà di questo tipo e sono più numerose, ma diciamo che anche a livello giuridico non è che proprio si sia preparati a questo tipo di concentrazione di diverse attività in un unico nucleo. Nella cooperativa c'è anche un centro accoglienza per richiedenti asilo. Alcuni si sono fermati, lavorano proprio con noi, sono diventati soci lavoratori, questa è la cosa più bella perché appunto ad oggi non c'è nessuna differenza, quindi loro sono soci come noi e fanno come noi parte a pieno diritto di questa esperienza. Era rapido. La cooperativa del Teatro Povero di Montichiello, qui ve l'hanno raccontata e non hanno raccontato il teatro. Allora, provo a raccontarvela veramente in 10 minuti, ma per farvi la storia. Nel 1967 si è in un momento in cui le campagne già stanno vivendo un periodo di fortissimo spopolamento, le campagne toscane, quindi c'è la fine della mezzadria, le persone iniziano ad andare a lavorare nelle città e Montichiello, che è un paesino ad oggi di 200 abitanti a 15 km da Pienza, si trova senza più persone, cioè stanno andando via. Tantissime persone sono ancora in migliaia a vivere tra i poderi e il paese, ma vedono le persone andare via e si rendono conto che non stanno affrontando la situazione. Siccome sono abituati a affrontare le cose collettivamente, ne iniziano a parlare, ne parlano in piazza e questo parlarne in piazza diventa una sorta di psicoanalisi collettiva che trasformano in uno spettacolo teatrale, che mettono in scena. Quindi durante l'anno, con le discussioni dell'anno, danno vita a uno spettacolo teatrale che mettono in scena e che recitano durante l'estate. All'inizio non lo scrivono nemmeno, lo recitano, insomma, è solo in forma orale, come succedeva nelle campagne toscane. Poi iniziano a scriverlo, ad avere collaborazioni con registi, a ampliare il proprio pubblico. Mio nonno, che penso non sia mai andato a teatro in vita sua, tutte le estati andava a vedere il Teatro Povero, perché era una cosa che in campagna si faceva, era forse un po' anche un tributo, un andare a vedere cosa succedeva. Nel 1980 decidono di dare vita a una cooperativa, che non si chiamava di comunità, perché non c'era il concetto di cooperativa di comunità, quindi fanno una cooperativa di lavoro. Anche prima di quel momento, qual era il concetto? Con i biglietti che noi prendiamo, con i soldi dei biglietti che noi riusciamo a prendere durante l'estate, ci paghiamo cose che ci servono tutto l'anno. Okay? Paghiamo servizi alla comunità. Quindi gli attori sono volontari, non prendono compensi, ma quello che deriva dal loro impegno lo reinvestiamo sulla comunità. Nel 1980 decidono di dare vita alla cooperativa e le prime cose che la cooperativa fa è acquistare quelli che riconosce come simboli del potere. Quindi comprano il granaio. Il granaio si chiama granaio perché prima aveva quella funzione lì. e era il posto dove i contadini da mezz'ora, cioè dovevano portare i frutti del loro raccolto a qualcun altro. Comprano una parte della, quindi il fattore, comprano una parte della fattoria e della villa del proprietario terriero. Comprano la sacrestia della chiesa, che fanno sconsacrare e ci fanno un ristorante. Una taverna, anzi, la chiamano tuttora taverna. Quindi, diciamo, si riappropriano, la comunità, il popolo, si riappropria dei simboli del potere. E lo fa in forma cooperativa. Da quel momento, tutti gli anni, viene messo in scena uno spettacolo, tutte le estati. Questa forma di teatro è stata studiata, si chiama autodramma popolare. Il Guggenheim Museum di New York ha mandato due documentaristi a vivere a Monticchiello per 6 mesi per farne un film che è uscito negli Stati Uniti nelle sale. Quindi acquisisce una dimensione che, come dicevi tu, va al di là della cooperativa. Se non ci siete mai stati, vi consiglio di andarci, perché è un posto particolare Monticchiello. È un posto che combatte giorno giorno, perché loro dicono sempre, la ragazza che diceva è un casino, non ci sono le leggi, è difficile da commercialista, chiaro, la commercialista di mestiere è quella che si trova a dover inquadrare una cosa che deve stare nel mercato, no? Quello diceva Giovanni, ma sfugge alle regole del mercato, perché è una cooperativa di lavoro ma ha un sacco di volontari e non si può avere i volontari in un'impresa, perché poi le altre imprese ti dicono allora fai concorrenza sleale, perché se te non paghi la gente, dove sta il confine tra volontario e sfruttamento? Ok, inizia a inserirvi un po' di elementi di contratto. Qui siamo già siamo in pieno, ok, quindi la legge dice se la gente lavora la devi pagare e siamo tutti d'accordo. Dove lo metto il volontario, magari di 17 anni e a Monticchiello mi mette e toglie le sedie per lo spettacolo? Dove li metto gli attori? Come gli rendo sicuro quell'ambiente? Allora, a me piace moltissimo, a parte che sono amici, ma mi piace moltissimo l'esempio del Teatro Popolo di Monticchiello, perché penso che sia proprio il prototipo di cooperativa di comunità, perché loro si sono messi a fare qualunque cosa gli capitasse. Cioè, aprono il progetto SPRAR, c'è cioè l'emergenza Nord Africa, non so se ve la ricordate, nel 2011, emergenza Nord Africa, aprono gli SPRAR e loro dicono, e non si fa niente? Cioè, noi non ci occupiamo di questa cosa? Abbiamo un ostello che usiamo, cioè abbiamo una foresteria che è dove mettiamo i nostri collaboratori d'estate, pace, troveranno un'altra sistemazione e qui ci facciamo lo SPRAR. E iniziamo a accogliere 3 persone perché quello spazio c'hanno e quelle persone sono in quel paese e quindi arriva una serie di ragazzi, ma è un altro mestiere, come vi rendete conto. Pochi mesi fa, che è un problema che ancora non hanno risolto e che mi sento un po' anch'io addosso, ma insomma, muore una persona giovane che aveva una fattoria. Gli animali devono essere mandati al macello perché non sanno, c'ha 2 figlie ma che sono piccole, insomma, minorenni, e loro non se la sentono di far andare a morire tutti questi animali. Prendono gli animali, quindi un ragazzo povero deve capire come gestire questi animali della fattoria, che è un altro mestiere rispetto a fare gli spettacoli teatrali. Un ragazzo del paese qualche anno fa che fa il meccanico ha un incidente sul lavoro e non può più muovere un braccio e quindi ha tutti gli strumenti, i sostegni economici del caso, ma inizia ad andare in depressione perché non può più lavorare, non può più fare il suo mestiere, sente di non avere più uno scopo. Si inventano di lavorare sul cicloturismo e costruiscono una ciclofficina che possa essere, in cui tutte le macchine possano essere usate da una persona che ha un braccio solo, che usa un braccio solo. Come potete immaginarvi, il costo di quella cicloficina non è esattamente il costo di una cicloficina, perché fanno fare tutte le macchine su misura. quella cosa sta in piedi economicamente. Sono riusciti, ma e lì si torna all'impegno, a far essere una cosa anche economica, economica. Questa è la scommessa ulteriore delle cooperative di comunità, è essere efficienti economicamente in un contesto che il mercato capitalistico ha deciso che non è economico. Perché fare quel tipo di servizi in un paesino come Monticchiello non arriverà a nessuno che li fa. Cioè, avete presente, ora per ricollegarmi a un po' all'attualità, no? Tutto il tema degli studentati a Firenze, la gente viene qui, apre gli alberghi perché si aspetta di prenderci, cioè di ricavarci del denaro. Ecco, non c'è nessuno che va a Monticchiello e gli dice: te l'apro io l'officina che può essere usata da una persona con un braccio solo, lo faccio io, ci investo io dei soldi. Nessuno lo farà. Quindi le cooperative di comunità sono consapevoli di fare cose che il mondo normale, tra virgolette, quello che percepiamo inconsciamente come l'unico mondo possibile, che è quello delle società di capitali, reputa impossibili, reputa non remunerative, non sensate. La cooperativa di comunità fa economia in un contesto in cui il mercato capitalistico ha deciso di non stare perché ritiene non economico. Quindi è una sfida ulteriore, perché la sfida delle cooperative è: provo a stare sul mercato in settori che anche altri reputano economici, ma lo faccio in maniera un po' diversa, lo faccio con i miei valori, con i miei principi. La cooperativa di comunità dice: vado in un posto dove quegli altri manco ci vogliono venire a fare impresa, perché reputano che non sia possibile. E io devo fare impresa, questa è l'altra cosa. Non faccio un'associazione e entro di nuovo forse in qualcosa che vi riguarda. Faccio un'impresa perché reputo che per stare in piedi ci sia bisogno di generare un'economia. Reputo che questa attività, se la lascio in una dimensione che non genera economia, vada a morire, cioè la rendo più debole. Perché il Teatro Povero? Il Teatro Povero di Monticchiello ha anche un'associazione culturale, che è il modo con cui fanno l'assicurazione agli attori, eccetera. Ma c'hanno accanto uno strumento economico, e quello strumento economico, con Chiara che si sbandezza, sta nelle regole del mercato, paga le persone, gli paga i contributi e genera reddito, genera anche utile negli anni in cui va bene,